so bene cos'è che sia successo. Non riesco a spiegarmelo nemmeno adesso. Sono passato dall'essere perso ad averti perso, e spesso mi fermo solo a questo. Tieniti forte, perché il vuoto che ti toglie il respiro arriva di notte. Sarà che il giorno siamo presi a far finta di niente, lontani dal cuore, lontani dalla mente. Ma tu qua ci sei sempre e io non so più scegliere. Togliti da me e sono un vuoto a rendere. Dare è diventato prendere, poi prendere, pretendere, pretendere. Era un po' come dipendere, adesso che siamo come legati anche se lontani. Vorrei saperti in salvo, in fila verso il domani. Magari io non potrò dimenticarti più ed egoista, vorrei che lo facessi tu. Per non dimenticare mai, per non dimenticare che comunque vada. Capace di odiarti, ma non posso pure se mi sforzo. E ti odio solo a tratti, ci sentivamo grandi. Per ogni giorno che passa ci fa più piccoli e codardi. A volte mi sembra di averti qua davanti. Chissà se pure tu mi vedi nei gesti degli altri. Non frequento più gli stessi posti per non incontrarti. Non saprei come comportarmi. 3, 2, 1, via, in catene ovunque sia. Non c'è cura per la mia malinconia. Non sono mai stato bravo a gestire la nostalgia. Eri tu a mandarla via, fare di tutto per poi non pensare quanto siamo bravi a farci del male. Tu mi scrivi se sei triste, io non so che dire. Sai, sarei felice di saperti felice, felice. Per non dimenticare mai, per non dimenticare che comunque vada ovunque andrai, sarai parte di me ed ogni volta che è possibile. Per non dimenticare mai.